e le cadenti vibrano astratte, gocce di pioggia puliscono il sangue, cade la lama con un tonfo sordo, l'istrione austero divelto collassa, falchi che volano senza più ali, traducono vortici, tapi infuocate e senza più spazio per soffocare l'oscuro candore di chi muore e ride, caldo e viscoso continua a colare, e all'orizzonte tramonta l'aurora, incatenato il sovrano allo schiavo, confido nel male che deve arrivare, presto ragazzi mi serve dell'acqua, saltando sopra dei prati bruciati, cammino all'indietro per vederci meglio, un po' d'acqua calda risolverà tutto, e troppi colori, ma non vedo il nero, elefanti marini, lattine di birra, il tuo volto continua a guardarmi stordito, sto per baciarti e diventi di piombo, sapore di fango, il labbra da dea, Prometeo, l'eroe dei figli di Gea, scalando il Parnaso, sbranato ogni passo, lui non finisce, eterno ritorno, e affondo il coltello, mi lacero gli occhi, sento le mani grondare di piume, il sangue è finito, ma non sono morto, sdraiato al tuo fianco, ti sto leccando e contento la sfitti, godiando la luce. Non ho polmoni, ma braccia di fuoco e sputo di ferro, e l'alba negli occhi, l'alba di morte, terribile sole, non mi guardate, eroici bambini. Non mi guardate, eroici bambini, voi troppo vecchi per ricordare, troppo alterati per divincolarvi, troppo sballati per non vedermi, e spero i bramani abbiano sbagliato, spero la mucca vada mangiata, ma non maledirmi, tu vergine alata, in questa notte in cui vivrà il serpente, io ti bacio ancora, poi sarò un lupo, alzando la lingua, mi sporco di bianco, puro disprezzo di turpe bellezza, perso ma pago di essere vinto, scavalco montagne alzando le braccia, ma sono schiacciato da termiti rosse, allucinato ma forse cosciente, un autobus corre, meteora fuggente, vodka alla fragola per tutti quanti, diventerai ninfa nel mare altezzoso, crudele quel bacio che ti voglio dare, ti amo, per questo te ne devi andare, e porta le ali sopra l'equatore, nascondi i tuoi petali, nascondi il fiore, e vivi i tuoi giorni da verde ciliegia, che poi la cornacchia vorrà divorare, diavolo ignaro di essere odiato, sorride e ti guarda con occhi ambrati, ascolta l'umilia, lo saltagli addosso, segui l'ammira, l'oddio te lo chiede, nato dal seme di un essere atroce, un uomo diviso in 12 raffe, è nero il tormento, nero l'amore, radendo al suolo la barba del frate, andate all'inferno, voi tutti quanti, per 3 minuti non mangerò sale, ma ci rivedremo, e sono convinto ci siamo già visti, già tutti dannati, ragazzo distrutto dal caldo polare, orgasmi analitici, placide lettere, testi inesatti, estratti suicidi, viaggi reali, mente ormai persa.